Avrei voluto rispondergli che durante quella colazione così degradante non si era parlato che di Emerson, Ibsen, Tolstoi e che la giovane aveva supplicato Robert di bere soltanto acqua per versare un po' di balsamo sull'orgoglio che credevo ferito di Robert. Mi sforzai di trovare qualche scusa alla sua amante. Non sapevo che in quel momento, malgrado la collera che nutriva contro di lei, era se stesso che stava rimproverando. Persino nei litigi fra un buono e una cattiva, e quando la ragione è tutta da una parte, capita sempre che vi sia una quisquiglia grazie alla quale può sembrare che la cattiva non abbia torto su un determinato punto. E poiché degli altri punti lei non tiene alcun conto, basta che lui ne abbia bisogno, sia demoralizzato dalla separazione, ed ecco che la debolezza lo riempirà di scrupoli. Ecco che, ricordando gli assurdi rimproveri ricevuti, il buono si chiederà se essi non abbiano qualche fondamento. «Temo di aver avuto torto in quella faccenda della collana», mi disse Robert. «Naturalmente non l'avevo fatto con cattive intenzioni, ma mi rendo conto che il punto di vista degli altri non può coincidere col nostro. La sua infanzia è stata molto dura. Per lei, nonostante tutto, io sono il ricco persuaso che col denaro si ottenga tutto e contro il quale il povero non può lottare, si tratti di influire su Boucheron o di vincere una causa in tribunale. Certo, se pensi che non ho mai avuto di mira che il suo bene, è stata davvero crudele. Ma so bene che, secondo lei, io ho voluto farle capire che la si può prendere per denaro. E questo non è vero. Chissà cosa penserà lei che mi ama tanto. Se tu sapessi, povera cara, ha certe attenzioni così delicate. Non so come dirti, ha fatto per me spesso delle cose adorabili. Chissà quanto è infelice in questo momento. In ogni caso, comunque vadano le cose, non voglio che mi prenda per un cafone. Corro da Boucheron a prenderle la collana. Chissà, forse di fronte a un gesto del genere riconoscerà i suoi torti. Vedi, quello che non posso sopportare è l'idea che in questo momento lei stia soffrendo. Le sofferenze che proviamo noi stessi le conosciamo bene, non sono nulla. Ma lei, pensare che soffre e non riuscire nemmeno a immaginarselo, credo proprio che impazzirei. Piuttosto che lasciarla soffrire, preferirei non rivederla più. Sia felice senza di me, se così deve essere. Non chiedo nient'altro. Per me, lo sai, tutto ciò che la riguarda è immenso. Diventa qualcosa di cosmico. Senti, io corro dal gioielliere e poi a chiederle scusa. Ma intanto, prima che la raggiunga, cosa potrà pensare di me? Se almeno sapesse che sto arrivando. Tu, per ogni evenienza, potrai venire a casa sua. Chissà, può darsi che tutto si sistemi. Forse, aggiunse con un sorriso, come se non osasse credere a un tale sogno, andremo tutte e tre a pranzo in campagna. Ma ancora non si può sapere. Sono così maldestro con lei. Sarei capace di ferirla ancora, povera piccina. E poi, magari, la sua decisione è irrevocabile. Robert mi trascinò bruscamente verso sua madre. «Addio!» le disse. «Sono costretto a lasciarvi. Non so quando mi daranno un nuovo permesso, certo non prima d'un mese. Appena me lo comunicheranno, ve lo scriverò». Robert non era assolutamente di quei figli che, trovandosi in società assieme alla madre, credono che un atteggiamento di insofferenza nei suoi confronti debba fare da contrappeso ai sorrisi e ai saluti che rivolgono agli estranei. Odiosa e diffusissima vendetta di gente per la quale si direbbe che la villania verso i propri cari sia il naturale complemento dell'abito da cerimonia. Qualsiasi cosa dica la povera madre, il figlio, come se fosse stato trascinato lì suo malgrado e volesse far pagare cara la propria presenza, contraddice immediatamente con precisa, crudele ironia l'asserzione timidamente arrischiata. La madre si affretta ad adeguarsi, senza per questo ammansirlo, all'opinione di quell'essere superiore del quale, in sua assenza, continuerà a vantare con tutti il carattere delizioso e che tuttavia non le risparmia uno solo dei suoi strali acuminati. Ben diverso era Saint Leu, ma l'angoscia causatagli dalla lontananza di Rachel faceva sì che, per tutt'altre ragioni, egli fosse con la madre non meno aspro di quei figli, e alle sue parole io vidi lo stesso fremito, simile a quello di un'ala che Madame de Marsan non aveva saputo reprimere all'arrivo del figlio, sollevare ancora per intero la figura della madre, ma era adesso un volto ansioso, erano degli occhi desolati che ella fissava su di lui. «Ma come, Robert? Vai già via, sul serio, bambino mio, l'unico giorno che potevo averti per me!» E quasi sottovoce, nel più naturale dei toni, con una voce da cui si sforzava di bandire ogni tristezza per non ispirare al figlio una pietà che gli sarebbe forse riuscita crudele, oppure inutile e capace soltanto di irritarlo, aggiunse, come semplice osservazione suggerita dal buon senso, «Non è gentile, sai, da parte tua». Ma questa semplicità, Madame de Marsant mescolava tanta timidezza per fargli capire che non intendeva violare la sua libertà, tanta tenerezza perché lui non la rimproverasse di intralciare i suoi piaceri, che Saint Leu dovette avvertire dentro di sé qualcosa come la possibilità di commuoversi, vale a dire un ostacolo al progetto di passare la serata con la sua amica. E fu per questo che si infuriò. Spiacente, ma gentile o non gentile è così. E rivolse alla madre i rimproveri che probabilmente sospettava di meritare egli stesso. È così che un egoista ha sempre l'ultima parola. Dando per scontata l'irrevocabilità della propria decisione, più il sentimento cui lo si richiama perché vi rinunci è toccante, e più egli trova riprovevole, non già a se stesso che vi resiste, ma chi lo mette nella necessità di resistervi, con la conseguenza che la sua durezza può giungere sino all'estrema crudeltà, senza far altro che aggravare vieppiù ai suoi occhi la colpa di una persona talmente indelicata da soffrire, d'aver ragione, talmente vile da provocargli il dolore d'agire contro la propria pietà. Del resto, Madame de Marsant smise spontaneamente di insistere, rendendosi conto che non sarebbe riuscita a dissuaderlo. «Ti lascio», mi disse Robert. «Ma tu, mamma, non trattenerlo troppo, perché ha una visita urgente da fare». Intuivo che nessun piacere poteva venire a Madame de Marsan dalla mia presenza, ma preferivo evitare di andarmene con Robert per non farmi credere coinvolto in quei piaceri che la privavano di lui. Avrei voluto trovare qualche giustificazione al comportamento di Robert, non tanto per affetto verso il figlio quanto per pietà verso la madre, ma fu lei a parlare per prima. «Povero ragazzo», mi disse, «devo proprio averlo rattristato. Il fatto è, signore, che le madri sono molto egoiste. E pensare che venendo a Parigi così di rado non si concede davvero troppi svaghi. Mio Dio, se non fosse ancora uscito vorrei tanto raggiungerlo, non certo per trattenerlo, ma per dirgli che non lo rimprovero, che ha ragione lui. Non mi dispiace se do un'occhiata sulle scale». Ci andammo insieme. «Robert! Robert!» gridò Madame de Marsan. «No, troppo tardi, se n'è andato. Adesso mi sarei adoperato per provocare una rottura tra Robert e la sua amante con la stessa determinazione con cui, solo poche ore prima, avrei fatto di tutto perché andasse definitivamente a vivere con lei. Nel primo caso, Saint Leu mi avrebbe considerato un traditore. Nel secondo, la sua famiglia mi avrebbe ritenuto il suo cattivo genio. Eppure ero sempre, a distanza di poche ore, la medesima persona». Tornammo nel salotto. Vedendo che Saint Leu non rientrava con noi, Madame de Villeparisis scambiò con il signor di Norpois lo sguardo dubitativo, beffardo e sostanzialmente impietoso con cui ci si addita una moglie troppo gelosa o una madre troppo tenera, le quali diano spettacolo di sé, uno sguardo che significa «a quanto pare c'è stata Maritta». Robert andò a portare all'amante lo splendido gioiello che, stando ai loro accordi, non avrebbe dovuto regalarle. Il risultato fu tuttavia lo stesso, perché Rachel non volle saperne e neanche in seguito Robert riuscì mai a farglielo accettare. Alcuni amici di Robert erano convinti che queste prove di disinteresse denunciassero da parte di lei un calcolo per legarlo maggiormente a sé, ma è un fatto che Rachel non teneva al denaro, tranne forse che per poterlo spendere senza problemi. Gli ho visto fare elemosine spropositate, senza discernimento, a persone che credeva povere. «In questo momento», dicevano gli amici a Robert per fare da contrappeso con le loro insinuazioni maligne a qualche gesto disinteressato di Rachel, «in questo momento la troveresti di sicuro nella galleria delle Folies Bergère. Quella donna è un enigma, un'autentica sfinge». Del resto, quante volte si vedono delle donne obiettivamente interessate, dal momento che si fanno mantenere, porre esse stesse, con una delicatezza che fiorisce nel bel mezzo di una tale esistenza, mille piccoli limiti alla generosità del loro amante. Robert ignorava quasi tutte le infedeltà della sua amante e lavorava di fantasia su piccole cose del tutto insignificanti in confronto alla vera vita di Rachel, vita che cominciava ogni giorno nell'attimo stesso in cui egli la lasciava. Le ignorava quasi tutte quelle infedeltà. Si sarebbe potuto ragguagliarlo in proposito senza scuotere la sua fiducia in Rachel. Infatti, per un'affascinante legge di natura che si manifesta nelle società più complesse, si vive nell'assoluta ignoranza di ciò che si ama. Da un lato dello specchio, l'innamorato pensa «è un angelo, non mi si concederà mai, non mi resta che morire, tuttavia mi ama tanto che forse… ma no, non sarà mai possibile». E nell'esaltazione del desiderio, nell'angoscia dell'attesa, quanti gioielli ammucchia ai suoi piedi, con quanta precipitazione va a farsi prestare del denaro per evitarle un fastidio. Nel frattempo, dall'altro lato della parete, che non ne lascia udire i discorsi più di quanto non si odano quelli di un gruppo di visitatori al di là di un acquario, la gente dice «Non la conoscete? Meglio per voi». Ha derubato, ha ridotto in miseria non so quante persone. Non esiste puttana peggiore. È una truffatrice fatta e finita. È furba come il diavolo. E forse la gente non è del tutto fuori strada nel fare quest'ultima affermazione, se anche l'uomo scettico, che non è veramente innamorato di lei, ma semplicemente la desidera, assicura agli amici... «Ma no, mio caro, non è per niente una cocotte. Non dico che nella sua vita non si sia tolta due o tre capricci, ma non è donna da concedersi per denaro, a meno che non si tratti di un patrimonio. Con lei o 50.000 o niente». Ebbene, lui che parla, ha per l'appunto speso 50.000 franchi e per averla una sola volta. Ma lei... trovando d'altronde il migliore dei complici proprio in lui, cioè nel suo amor proprio, è riuscita a fargli credere di essere fra coloro che l'hanno avuta gratis. Così è la società, dove ciascuno ha due facce, e le persone più marce, più malfamate, non saranno mai viste da certe altre se non sullo sfondo e dietro la protezione di una conchiglia, di un dolce bozzolo, di una deliziosa curiosità di natura. C'erano a Parigi due onest'uomini cui Saint-Leu aveva tolto il saluto e di cui non poteva parlare senza che gli tremasse la voce e senza chiamarli sfruttatori di donne. Erano stati, sia l'uno che l'altro, rovinati da Rachel. «Una sola cosa mi rimprovero», mi disse sottovoce Madame de Marsant. «Avergli detto che non era gentile. Ha un figlio adorabile, unico, come non ce n'è altri. Dirgli, per una volta che lo vedo, che non è gentile. Ah, preferirei che m'avessero bastonata, perché qualsiasi svago si prenda stasera, lui, che può concedersene così pochi, sono sicura che la mia frase ingiusta glielo guasterà. Ma, signore, non voglio trattenervi, so che avete premura». Madame de Marsant mi salutò con aria ansiosa. Quei sentimenti riguardavano Robert, era sincera, ma smise di esserlo per ridiventare grandama. «Ma tanto interessata, sono stata così felice, così lusingata di chiacchierare un po' con voi. Grazie, grazie!» E mi fissava con un'espressione riconoscente, inebriata e al tempo stesso umile, come se la mia conversazione fosse stata uno dei più grandi piaceri mai provati nella sua vita. I suoi sguardi affascinanti erano in perfetto accordo con i fiori neri sul suo abito bianco a rameggi. Appartenevano a una gran dama che conosce il proprio mestiere. «Ma no, signora, non ho nessuna fretta», risposi. «Del resto, aspetto il signor di Charlieu per uscire assieme a lui».